Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oltre che lettrici e lettori sarete certamente consumatori di arte e di cultura nei musei, nelle mostre, nei luoghi d'arte. Allora parliamo di un tema che è sicuramente molto attuale in questi anni, quello dei beni culturali, un settore di cui si parla spesso a sproposito, come fonte di risorsa economica, come grande simbolo di identità collettiva. I ministri cambiano spesso le norme, le disposizioni, parliamo spesso di rivoluzione nei beni culturali, dopodiché si può anche discutere sugli esiti e sui risultati, perché non sempre l'aumento degli utenti di cultura è così forte come potremmo sperare, ma insomma il tema è centrale nel dibattito e allora affrontiamolo con un esperto, una voce molto autorevole che ha scritto un libro originale con dei contenuti che vanno in parte controcorrente. Lui è il presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, il professor Giuliano Volpe, che è un archeologo di professione e ha scritto Un patrimonio al futuro, un manifesto per i beni culturali e il paesaggio. È pubblicato da Electa, 176 pagine, 14 euro. Si parte nel libro dalla crisi economica, che non è soltanto crisi economico-finanziaria, ma anche politica, etica, dice Volpe. Allora, che cosa può fare la cultura in questo frangente? Come può contribuire a costruire una società migliore? Queste sono le domande iniziali da cui parte Volpe e per rispondere osserva l'autore innanzitutto che occorre far riavvicinare la gente ai beni culturali. E qui c'è una stoccata molto importante, significativa, a quelli che egli chiama gli specialisti, sacerdoti del patrimonio culturale, tra virgolette, aggiunge Volpe, che hanno però favorito negli anni, più o meno consapevolmente, una netta separazione, un vero e proprio divorzio tra cittadini e patrimonio. Volpe comincia dall'istituzione del Ministero dei Beni Culturali, dall'aumento dell'organico del personale, nonostante critiche inascoltate a questo andazzo che si manifestò molti anni fa, e poi parla delle tante modifiche appunto che si sono succedute nel settore fino alla recente riforma del ministro Franceschini, che per Volpe ha il merito di fare i conti con la realtà, e poi fa tante proposte che adesso chiediamo all'autore di illustrarci. Buonasera Giuliano Volpe. Salve, buonasera. Giuliano Volpe, il settore del bene culturale è quello nel quale molto spesso, forse più spesso che in altri, si parla della necessità di innovare, si parla di innovazione. Lei su questa parola è abbastanza prudente nel suo libro, però avanza anche delle proposte che suonano quasi rivoluzionarie, come la sovrintendenza unica. Sì, io vorrei riempire di contenuti la parola innovazione, che spesso viene utilizzata a sproposito, e nel campo dei beni culturali noi negli ultimi decenni abbiamo innovato poco, ci siamo un po' cullati nel culto di una tradizione importantissima, gloriosa, che come tutte le tradizioni, se non sono riempite di nuova linfa, rischiano di diventare invece conservazione e non tradizione, e questo è quello che è successo nel nostro paese. Allora innovazione significa partire dal concetto stesso di patrimonio culturale, che è cambiato nel corso di questi ultimi decenni. Pensiamo a quel documento rivoluzionario, veramente rivoluzionario, che è la Convenzione di Faro, la Convenzione europea sull'eredità culturale, che pone al centro dell'attenzione i cittadini, le persone, e che attribuisce a loro il ruolo di dare valore al patrimonio culturale, quindi uscendo da una concezione di valore in sé, quindi immodificabile, statica. È una visione molto più dinamica che richiede molta più partecipazione e dunque un'idea di patrimonio culturale più organica, e qui pensiamo alla Convenzione europea sul paesaggio, sul ruolo centrale che ha il paesaggio nel contenere al suo interno tutte le componenti del patrimonio culturale in tutte le sue espressioni materiali e immateriali. Quindi se il patrimonio culturale è qualcosa di unitario, di organico, noi dovremmo affrontarlo nel momento dello studio, nel momento della tutela, nel momento della valorizzazione in maniera unitaria, in maniera organica. Ecco perché la proposta delle sovrintendenze uniche, che non è una risposta amministrativa, meramente amministrativa, ma è una risposta culturale, metodologicamente innovativa, perché mette insieme tutte le competenze, che non sono più solo quelle degli archeologi, degli architetti, degli studiosi dell'arte, ma entrano in gioco competenze molteplici, comprese quelle degli economisti della cultura, dei comunicatori, di coloro che si occupano di scienze applicate, di informatica, di tecnologie. Quindi è necessario avere delle squadre multidisciplinari che affrontino in maniera più unitaria, organica, olistica, come a me piace dire, il patrimonio culturale. Ma questa è solo una delle innovazioni, perché poi tutte le altre vengono un po' a cascata. Quindi se al centro ci sono i cittadini, se al centro ci sono le comunità locali, è evidente che dobbiamo rivedere, per esempio, le forme della valorizzazione e quindi della comunicazione. Ecco, del rapporto. Scusi professore, fermiamoci su questo aspetto un momento. Lei sì. Parla di valorizzazione. Questa parola è diventata quasi una parolaccia per molti cultori anche dei beni culturali. Perché questo problema in Italia? Perché valorizzare in Italia molti, quelli che secondo lei sacralizzano i beni culturali, non va bene? Dà un valore esclusivamente monetaristico e mercantile a questa parola, che invece è una parola importante, perché significa dare valore al patrimonio culturale, a cominciare dal valore che diamo non noi specialisti, o almeno non solo noi specialisti, ma quello attribuito, percepito dai cittadini, cioè dai legittimi proprietari del patrimonio culturale. E valorizzazione è un termine ambiguo effettivamente, ma è incredibile che possa essere messo in contrapposizione con tutela, se non altro perché come si può valorizzare una cosa che non si conserva? Ma mi verrebbe da dire, a che serve conservare qualcosa che poi non viene messo a disposizione di tutti e quindi valorizzato in questo senso? La cosa che mi impressiona è che chi come me, come il ministro Franceschini, come tanti altri per la verità, vogliono dare un nuovo ruolo, un riequilibrio, ecco, che è un riequilibrio quasi costituzionale, potremmo parlare dell'articolo 9 in questo senso, che già prevedeva di promozione dello sviluppo della cultura, e cioè della possibilità data a tutti di possedere il bene, il patrimonio culturale, cioè innanzitutto di conoscerlo. E quindi noi che diamo importanza alla valorizzazione, ma non per annullare la tutela, vogliamo riequilibrarla, vogliamo mettere le due componenti in equilibrio e in dialogo continuo tra le due, perché la valorizzazione è anche quello strumento che consente ad esempio di recuperare maggiori risorse da destinare alla conservazione, alla tutela e quindi a forme più efficaci di valorizzazione, ma non si tratta di annullare la tutela, mentre chi parla solo di tutela vede la valorizzazione come un diavolo, e quindi questo è francamente incomprensibile, è un dibattito quasi solo italiano, per la verità abbastanza anacronistico e, me lo lasci dire, ormai iper ideologico, certo. Non ho nulla contro le ideologie, ma insomma, però non si può restare bloccati in questa visione, dovremmo essere un po' più europei, un po' più aperti anche alle esperienze mondiali, perché quando andiamo all'estero, in un qualsiasi museo, quando andiamo al Louvre, apprezziamo gli strumenti che il Louvre e tanti altri musei mettono a disposizione per poter capire meglio le opere, per poter apprezzarle meglio, per poter passare qualche ora piacevole in un ristorante di qualità, in una caffetteria per chiacchierare, perché il museo e i luoghi della cultura devono essere dei luoghi in cui si ha piacere e si ha voglia di andare, non luoghi in cui si deve andare, oppure luoghi in cui si capisce qualcosa solo chi quelle opere già le conosce. Insomma, c'è un lavoro quasi di democratizzazione del patrimonio culturale, che significa abbandonare quella visione tutta elitaria e anche proprietaria che finora è stata dominante. Accanto alle parole valorizzazione e tutela, una delle più usate in questo dibattito è la parola gestione, cioè come si aprono, come devono funzionare i luoghi di cultura. Lei a un certo punto intitola un suo capitolo 10, 100, 1000 nuove forme di gestione, quindi occorrerebbe un pluralismo anche delle gestioni. Assolutamente sì, il che non significa che lo Stato deve derogare, andare, abbandonare, non è questo. Lo Stato gestisca, e gestisca meglio evidentemente di come fa ora, tutta una serie di musei, di luoghi della cultura, di aree archeologiche, ma se noi continuiamo ad insistere sul fatto che l'Italia è un museo diffuso, che ha un patrimonio presente in ogni piccolo borgo, in ogni lembo remoto del nostro paese, che ne fa quindi un'esperienza unica, ma come possiamo pensare che tutto questo possa essere gestito in maniera unica da un solo gestore? E allora lo Stato faccia lo Stato, cioè indichi norme, regole chiare, trasparenti, dia gli indirizzi, faccia una valutazione seria, ma poi dia spazio alle tante energie che sono presenti nel paese, che possono essere quelle dei tanti professionisti che noi formiamo nelle università e che sono una importante risorsa, che sono piccole società, che sono società spin-off universitarie e anche, perché no, società onlus. Ci sono tante esperienze, ma ci sono già attive ora delle esperienze che spesso hanno fatto fatica ad affermarsi, e quindi io non penso soltanto ai grandi monopolisti che prendono in gestione quelli che vengono ancora oggi chiamati i servizi aggiuntivi dei musei e invece sarebbero servizi essenziali dei musei, ma penso alle tante realtà che potremmo sollecitare affidando loro, sotto uno stretto controllo evidentemente di qualità, affidando loro la gestione nelle forme in cui è possibile nelle varie realtà italiane. Questo credo che potrebbe sprigionare energie e ovviamente anche opportunità di sviluppo locale, opportunità di lavoro per i tanti ottimi giovani professionisti. Grazie a Giuliano Volpe, autore di Patrimonio al futuro. Buona serata. Grazie a lei. Uno dei simboli del patrimonio artistico italiano è Pompei, al quale dedica un libro un giornalista di Repubblica, Francesco Erbani, Pompei, Italia. È pubblicato da Feltrinelli, 174 pagine, 14 euro. Un simbolo della cultura italiana, ma anche una città e una località al centro di proverbiali inefficienze, addirittura di malaffare, di malgoverno, di interventi legislativi e amministrativi che spesso si sono rivelati velleitari e che qui nel libro ci vengono raccontati. Una situazione, quella di Pompei, che appunto esemplifica i grandi problemi e le sfide della gestione del patrimonio culturale italiano. A Pompei, scrive l'autore, regna un degrado che procede passo dopo passo, un degrado che sta nell'ordine naturale di una città dissepolta, rimasta senza abitanti, come custodiscono, ma con i muri, gli intonaci decorati, le pitture e tutte le altre strutture che con poche protezioni sfidano il caldo e il freddo, la pioggia, la grandine e l'umidità. Eppure c'è un esempio a pochi chilometri invece di gestione virtuosa, quella di Ercolano. Lì, grazie a un mecenate privato, un americano ricchissimo, e capite perché, si chiama David Packard, erede appunto di questa grande dinastia imprenditoriale che è appassionato di archeologia, grazie a questo mecenate, dicevo, le cose funzionano molto bene. Si può esportare a Pompei il modello Ercolano? Speriamo di sì. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non, in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di una grande passione degli italiani, forse possiamo dire una specie di mania collettiva, quella della cucina e degli chef soprattutto stellati. E ve ne parlo attraverso due libri molto diversi, di due autori molto diversi. Il primo è Leonardo Lucarelli, classe 1977, che esercita la propria professione all'Aquila e che pubblica Carne trita, l'educazione di un cuoco. È pubblicato da Garzanti, 270 pagine, 16,40 euro. E questo è in qualche modo un libro di formazione. Lucarelli è figlio di due fricchettoni, come li definisce lui stesso, una coppia che abbandonarono l'Italia per andare a stare molti anni in India. Lui stesso nasce in India, poi acquistano un casale, un rudere in Umbria, trasformandolo appunto nella loro residenza, e insomma cresce in questo ambiente. Lì comincia a sentire Lucarelli la passione per la cucina, si ingrazia agli amici preparando le cene, magari con cibi che tutti insieme hanno rubacchiato al supermercato, e poi pian piano la passione diventa un mestiere mai facile e sempre di grandi sacrifici, come spiega in questo libro. Lucarelli non mitizza infatti per nulla i grandi chef, anche per alcune esperienze dirette avute con i suoi maestri. Infatti Lucarelli descrive così l'ambiente nel quale è cresciuto: sono entrati in cucina quando dentro c'erano pazzi e geni, con passati torbidi e presenti fatti di tossicodipendenze e alcolismi, personaggi dal fascino irresistibile, soprattutto quando prendevano un coltello o una padella in mano e li usavano con maestria da funamboli. È capitato probabilmente nel momento giusto, perché, aggiunge Lucarelli, adesso la ristorazione è sdoganata e lucidata. L'essere cresciuto proprio nel bel mezzo di questo cambiamento professionale e sociale in qualche modo mi ha permesso di bruciare le tappe. Ho goduto, conclude l'autore, della crescente spettacolarizzazione di quello che stava diventando il mio lavoro. E nel libro troviamo appunto la descrizione di questo ambiente che favorisce una carriera magari fortunata, ma in qualche misura, come lo definisce lui stesso, occasionale. Infatti di sé dice Lucarelli: ho lavorato da lavapiatti, da aiuto per gli antipasti, la preparazione fredde. Poi sono stato capopartita sia dei primi che dei secondi in un locale di Trastevere abbastanza sfigato, dove mi sono ritrovato chef più per colpa della schizofrenia di colleghi e proprietari che per meriti miei. Sono stato insalataro, ho organizzato serate a testaccio, eccetera, eccetera, eccetera. Grande sfiducia mostra Lucarelli nei confronti delle scuole, dice infatti, mette in bocca a un suo personaggio a un certo punto queste parole: a me non me ne importa niente né dell'alberghiero né delle scuole di cucina, sto nella ristorazione 12 anni, aspiranti chef, ragazzini ancora sporchi di latte adatti allo studio, trentenni affascinati dal miraggio di giocare con lo scalogno caramellato e il tartufo bianco d'alba, sfigati e sognatori d'ogni risma, fanno le scuole di cucina. Tutti gli altri, quelli che cucinano per davvero, semplicemente nelle cucine ci entrano. E quello descritto da Lucarelli è un ambiente di gente spesso egocentrica, dissociata in certi casi, magari anche appunto, come si diceva, tossicodipendente, dove regna il lavoro nero. Insomma, un ambiente del quale Lucarelli ci dà un quadro forse diverso da quello luminoso che conosciamo da altre testimonianze. Uno chef affermatissimo, nonostante lavori anch'egli in una zona relativamente decentrata, è Nico Romito, lo chef del ristorante di Castel di Sangro fondato nel 2000, stellato dal 2006 e trasferito poi nella nuova sede nel 2011. Romito ha scritto con Leopoldo Gasbarro il libro apparentemente semplice La mia cucina ritrovata. Spelling e Kuffer, 228 euro, 17,90. Quella di Romito è una storia molto diversa da quella di Lucarelli, anche se in fondo l'approdo alla ristorazione anche in questo caso è un approdo abbastanza casuale. Romito, per la verità, è figlio di un albergatore di Rivisondoli che non ha molto successo e quindi si dedica in particolare alla pasticceria, che invece si afferma rapidamente. Ma il padre decide di trasferire i bambini piccoli a Roma dall'Abruzzo perché seguono le scuole. Lì Romito, come confessa in questo libro, cresce come un ragazzo borghese che pensa già a godersi la vita, studia economia, gioca a tennis, non ha in mente di occuparsi di pentole e pignatte. Il padre intanto affianca la pasticceria a un ristorante, ma purtroppo a un certo punto si ammala molto giovane. Nico, nonostante la sua giovane età, comincia a prendere in mano le redini del business familiare, soprattutto appunto dopo la morte del genitore. Cambia vita, si dedica al ristorante e di qui comincia il successo di questa attività, che non sarà certamente facile. Romito, per esempio, ricorda la prima esperienza di un cenone di Capodanno preparato in tutte le forme, nel quale peraltro si erano presentati soltanto due clienti. La svolta avviene col recupero di un dolce che attira gli sportivi che vanno a sciare da quelle parti. Questo dà la fama al locale, al bar e alla pasticceria, e da qui nasce il successo anche del ristorante. Romito viene chiamato, comincia a farsi conoscere, i suoi concorrenti colleghi lo chiamano il ragazzino delle montagne, appunto i colleghi stellati che peraltro ammirano i suoi progressi che lo porteranno a essere chef del G8 che si svolse all'Aquila. Il successo di Romito è un successo contagioso, e questo è molto significativo. Scrive infatti Romito: nel 2006 eravamo l'unico ristorante stellato in Abruzzo, oggi ce ne sono altri 5, a dimostrazione che il movimento che si è creato ha prodotto risultati importanti per tutta la regione. Sulle abitudini degli italiani a tavola vi segnalo un libro molto leggibile e agile di Pier Francesco Listri, che si intitola appunto Gli italiani a tavola, 150 anni di rivoluzione alimentare e altro, è pubblicato dalle Lettere, 90 pagine, 11,90 euro. E qui troviamo la descrizione di come sono cambiate le tavole degli italiani dall'unità a oggi, in questo piacevole, anche per le illustrazioni, volumetto ricco di spunti e di curiosità. Un libro curioso e raffinato anche per la presentazione grafica è quella di Daniela Trasatti, che viene illustrato da un grande artista italiano, Luigi Serafini, l'autore del Codex Serifinianus. È un libro dedicato a un animale che troviamo spesso imbandito a tavole, cioè il coniglio. Il libro si intitola Il coniglio d'oro, piccolo trattato di antropocunicologia. È pubblicato da Rizzoli, 112 pagine più 44 pagine di ricettario, 30 euro. In questo periodo pasquale magari i conigli li compriamo di cioccolata, ma come mai il coniglio è associato alla Pasqua? Sentiamo da questo libro una spiegazione. La tradizione del coniglietto di Pasqua, che all'inizio era un leprotto, viene da lontano. C'è chi la fa risalire in generale ai riti precristiani legati alla fertilità, e chi in particolare alla divinità anglosassone Eostre, o Ostara in versione germanica, una dea che molti sostengono fosse associata all'alba, alla primavera, al rinnovamento, alla fertilità e forse anche alla lepre. Ma come mai un leporide come simbolo pasquale? Come già ricordato poco sopra, le lepri erano considerate simbolo di fertilità e di rinascita in varie mitologie. Doveva risultare difficile non notare le lepri in amore a primavera, tanto che in inglese si dice matto come una lepre a marzo, detto che ha poi ispirato il personaggio della lepre marzolina nelle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Tornando alla festività cristiana, si narra che Sant'Ambrogio, VI secolo, riconoscesse nella lepre un simbolo di risurrezione, grazie alla capacità del suo manto di cambiare colore in primavera e in autunno, rinnovandosi ogni volta. Evidentemente il santo si riferiva alla lepre alpina, la cui pelliccia è bianca durante i mesi invernali e di colore grigio-marrone nei mesi estivi. Con il tempo, poi, il coniglio avrebbe preso il posto della lepre nella simbologia cristiana. Pare comunque che i primi leprotti di Pasqua siano apparsi in Germania nel XV secolo, proprio come simboli di fecondità e di prosperità, e che siano stati in qualche modo collegati all'antichissima simbologia dell'uovo, anch'essa legata alla fertilità, alla nascita e alla rinascita primaverile. Ex ovo omnia, tutto proviene dall'uovo. Nei secoli successivi, gli immigrati tedeschi e olandesi avrebbero diffuso questa usanza negli Stati Uniti, dove ha preso il nome di Easter Bunny. E nel libro troviamo informazioni scientifiche, curiosità, personaggi letterari e naturalmente le bellissime illustrazioni di Serafini, tutto intorno al tema del coniglio, per finire appunto con qualche tentazione culinaria. E a questo punto... Il confettino. Una classe di conigli, per l'appunto, è la protagonista di Non tiplicazioni di Stephanie Blake, tradotto da Tanguy Bablé e pubblicato da Baba Libri, 12,50 euro. Nel libro c'è un coniglio, Simone, che scoprirà il fascino delle tabelline. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il libro di un cognome famoso, Piero Villaggio, che ha scritto Non mi sono fatto mancare niente, la mia vita all'ombra di un padre ingombrante, pubblicato da Mondadori, 116 pagine, 17,50 euro. Il padre ingombrante è naturalmente Paolo Villaggio ed è interessante nel libro la cronaca di un rapporto impegnativo pur in una vita comoda, come naturalmente è stata quella del figlio di un grande artista arrivato. Poi vi segnalo il libro di Caterina Bonvicini, Tutte le donne di... È pubblicato da Garzanti, 196 pagine, 10 euro. Siamo alla vigilia di Natale. 7 donne sono raccolte intorno al desco per la cena di Natale. Sono le 7 donne che dominano la vita di un Vittorio. Sono appunto dalla madre, quasi novantenne, alle figlie, alle due mogli, all'amante. Manca solo lui, Vittorio, eternamente ritardatario, che però questa volta proprio non verrà e lascerà stupefatte le sue donne con un misterioso messaggino che contribuirà a ricreare un rapporto molto diverso tra le protagoniste. Infine vi segnalo il titolo di un grande giornalista, Giampaolo Pansa, Il rompiscatole, l'Italia raccontata da un ragazzo del 35, Rizzoli, 398 pagine, 20 euro, una cronaca della vita di un grande testimone dell'Italia negli ultimi 50 anni e appunto di un grande giornalista che non ha mai sfuggito le polemiche contro i suoi scritti coraggiosi e controcorrenti. E con questo ringrazio Luca Cremonese redazione, Filippo Aureggi regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.